Sono felice di vederla, capitano. Non sembra ferito. Spazio, ultima frontiera. Eccovi i viaggi dell'astronave Enterprise durante la sua missione quinquennale, diretta all'esplorazione di nuovi mondi, alla ricerca di altre forme di vita e di civiltà, fino ad arrivare laddove nessun uomo è mai giunto prima. Ed eccomi arrivato finalmente sul ponte dell'Enterprise. Eccomi qua. Un saluto a tutti da parte di Andrea. Siete all'ascolto di Star Trek Viaggio nella storia della musica. Striscia, direi quasi quotidiana, che vi porta per mano la scoperta delle curiosità musicali e non solo. Tutti i vari contatti di riferimento per interagire con la trasmissione: www.startrekonline.org. Questo è il mio sito blog dove vi parlo un po' di me, dove trovate tutti i vari link per aggiungermi nei social network. Scusate, è un allarme probabilmente. Non riesco a capire cosa succede. Cosa sta succedendo? Scusate ragazzi, non so cosa è successo, ma praticamente stavamo seguendo un'orbita con l'astronave Enterprise. Ebbene, non riesco a capire, ma quest'orbita è notevolmente cambiata. Qua di fronte a noi abbiamo un pianeta sconosciuto. Sinceramente non so che cosa possa essere questo pianeta qua, veramente. Sono sì, felice. Mi dica, Spock. Di vederla, capitano, non grazie. Sembra ferito. No, però con quello che è successo, insomma, con la nave è stata toccata da qualcosa e praticamente abbiamo cambiato completamente orbita, non so più dove siamo. Direi di fare una cosa, Spock, sbarchiamo immediatamente in questo pianeta col teletrasporto che mi dicono si chiami Pianeta Anni 60. Sinceramente non so che tipo di pianeta possa essere. Comunque sbarchiamo tutti insieme, lei, il dottor McCoy, sul pianeta anni 60. Teletrasporto. Perché tu, io lo so, sei migliore di me. Perché tu le darai tutto quello che hai. Perché finché vivrai amerai solo lei. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Anche se soffrirò più di quello che so, anche se già lo so che io mi pentirò, anche se lei per me lascerebbe anche te. Non farò niente per riportarla da me. Riderà, riderà, riderà. Se tu l'amerai un po' meno di me, ma se tu cambierai e un altro uomo sarai, ma se tu scioperai quel che ho fatto per lei, giuro che tornerò e la riprenderò. Riderà, riderà, riderà. Doverosa l'apertura con Riderà di Little Tony. Noi abbiamo un attimo scherzato, insomma, qua Star Trek, però mi è sembrato giusto aprire la trasmissione con questo primo pezzo che ci ricorda anche Little Tony. Doveroso l'applauso dedicato alla memoria di Little Tony. Uno dei grandi protagonisti per l'appunto della scena degli anni 60 insieme ad Adriano Celentano, eccetera eccetera. Little Tony, nome d'arte Antonio Ciacci, nato a Tivoli il 9 febbraio del 1941, purtroppo scomparso a Roma il 27 maggio del 2013. È stato un cantante e un attore sammarinese, interpretando numerosi successi cinematografici, ma anche successi musicali. Ricordiamo per l'appunto la canzone Riderà, poc'anzi ascoltata, poi ancora Cuore matto, 24.000 baci in coppia con Adriano Celentano. Cittadino della Repubblica di San Marino, nato in Italia a Tivoli da famiglia sammarinese da 7 generazioni, con i suoi genitori entrambi originari di Chiesa Nuova. Ha vissuto quasi sempre in Italia, però una curiosità, non ha mai richiesto la cittadinanza italiana, chissà come mai. Ha iniziato giovanissimo ad interpretare successi musicali, quindi ha una carriera veramente veramente interessante, e pensate che anche i suoi due fratelli sono anch'essi musicisti, Enrico chitarrista e Alberto bassista. Purtroppo è scomparso di recente. Abbiamo iniziato per l'appunto questa trasmissione dedicata agli anni 60 con questo grande interprete veramente della canzone italiana, il mitico Little Tony. Ora vi ricordo un attimo che siete sempre all'ascolto di Star Trek, Viaggio nella storia della musica. È sempre giusto farlo perché c'è sempre chi è che si sintonizza magari casualmente qua su appunto Spreaker Radio, oppure direttamente anche sul mio sito www.startrekonline.com. Mandiamo un saluto a tutte le radio che ci ritrasmettono e quindi lanciano, diciamo così, il nostro messaggio di questa trasmissione molto molto bonaria, dove si scherza principalmente. Siamo sempre sul pianeta anni 60, saldamente proprio sintonizzati non solo con con Star Trek, ma anche proprio con la nostra bella musica degli anni 60. Dopo un artista maschile, direi di ascoltarci questa volta un artista femminile, anche lei grande protagonista di quegli anni. Sto parlando di Rita Pavone. Rita Pavone, il ballo del mattone. Benvenuti ancora una volta tutti a bordo dell'astronave Enterprise in questo speciale dedicato agli anni 60. Tra l'altro una cosa molto carina che riguarda sempre quegli anni favolosi, questi cantanti si potevano proprio vedere anche nei piccoli paesini, nelle piccole cittadine, perché insomma quando non erano ancora famosi facevano veramente un sacco di gavetta, insomma non mica tanto come oggi, no? Che insomma, però per esempio vi voglio dare un indirizzo di una balera, ai tempi si chiamava così, poi insomma hanno cambiato nome da club a discoteca negli anni 70. Cercate su Google Sandalo Cinese Stradella, praticamente è un locale in provincia di Pavia a Stradella. E si può dire è stato il tempio veramente di questi musicisti degli anni 60, perché in quegli anni si poteva magari incontrare Rita Pavone, Little Tony, Adriano Celentano, Mina anche, sì. Bene, se cercate su Google troverete anche il sito, che adesso proprio non me lo ricordo a memoria. Nel sito navigate all'interno del portale, cercate il link Sandalo Cinese Ieri e trovate un sacco di foto veramente che ritraggono i personaggi di quell'epoca, i grandi cantanti degli anni 60. Insomma era il boom economico, si stava veramente bene, si iniziavano a vedere le prime televisioni nelle case, le macchine che circolavano, gli elettrodomestici. Anni, anni, anni meravigliosi, ora ce le ricorda anche Nico Fidenco con questa canzone stupenda. Siete sempre a bordo di Star Trek, viaggio nella storia della musica, questa sera viaggio negli anni 60, legata a un granello di sabbia, Nico Fidenco. Mi vuoi lasciare e tu vuoi fuggire, ma solo al buio tu poi mi chiamerai. Ti voglio cullare, cullare, posandoti su un'onda del mare, legandoti a un granello di sabbia, così tu nella nebbia più fuggir non potrai.